At-Tariq, l'astro notturno. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso. Was-samai wat-tariq. Per il cielo e per l'astro notturno. Wama adraka mat-tariq. E chi mai ti dirà cos'è l'astro notturno? An-najmu s-saqib. È la fulgida stella. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Non c'è anima alcuna che non abbia su di sé un angelo guardiano. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Consideri dunque l'uomo da che cosa fu creato. Khuliqa min ma'in dafiq. Da un liquido eiaculato. Yakhruju min bayni s-sulbi wat-tara'ib. Che esce di tra i lombi e le costole. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Allah è certo capace di ricondurlo. Yawma tubla s-sarair. Nel giorno in cui i segreti saranno svelati. Fama lahu min quwwatin wa la nasir. E l'uomo non avrà più né forza né ausilio. Was-samai dhatir raj'a. Per il cielo che ritorna incessantemente. E per la terra quando si fende. In verità questa è parola decisiva. Per nulla frivola. In vero tramano insidie e io tesso la mia strategia. Concedi una dilazione, miscredenti. Da loro un po' di tempo.